24. La storia. Alfredina! Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano. I vigili del fuoco stanno tentando di salvare la vita ad Alfredo Rampi. Era un caos generale. Era diventato un reality show terrificante. Un terrificante reality show, dunque. È stata anche questa la tragedia di Alfredo Rampi, un bambino di 6 anni che nel giugno dell'81 è caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino a Roma. Un vero e proprio circo mediatico andato in scena di fronte alle telecamere. È la prima lunghissima diretta non stop della Rai, 3 giorni con tutta l'Italia incollata alla televisione, nella speranza che i vigili del fuoco riuscissero a tirar fuori Alfredino da quel pozzo maledetto. Oggi a Mix24 ricostruiamo quella storia, quelle ore terribili, a partire da quando Alfredo, nella campagna di Vermicino, cade nel pozzo. Sono le 19 circa di mercoledì 10 giugno dell'81. Ferdinando Rampi, 41 anni, dipendente della CEA, sta passeggiando con il figlio Alfredo, di 6 anni. Il piccolo gli dice di voler tornare a casa da solo. Si tratta di percorrere pochi metri. Ferdinando lo lascia andare. E invece Alfredo Rampi a casa non ci tornerà mai. Dopo neanche mezz'ora scatta l'allarme. Ferdinando e Franca Rampi, il papà e la mamma di Alfredo, quando non lo vedono arrivare a casa, si preoccupano e cominciano a cercare il bambino. Poi, alle 21:30, decidono di chiamare la polizia. Sul posto arrivano gli agenti di polizia e le unità cinofile. Ore 24. Un poliziotto, Giorgio Serranti, sente dei flebili lamenti giungere da un pozzo artesiano. Ma l'imboccatura è coperta da una lamiera. Mi sono avvicinato al pozzo e ho sentito un lamento che veniva dalla profondità del terreno. Una cosa spaventosa è stata. E il pozzo era coperto. Era coperto con che cosa? Con un bandone fatto a imbuto che era incastrato. Lamiera? Lamiera. Dunque il pozzo in cui è caduto Alfredino era coperto da un pezzo di lamiera. Ma questo è un mistero che si chiarirà, che verrà chiarito dopo pochi giorni. Il proprietario del terreno infatti dichiara ai magistrati di essere stato lui a coprire il pozzo intorno alle 21, senza immaginare ovviamente che dentro ci fosse intrappolato un bambino. Ma in quella notte di giugno non c'è tempo per farsi troppe domande. Alfredino è in quel pozzo e bisogna tirarlo fuori. Sul posto, da Roma, arrivano anche i vigili del fuoco. L'operazione di soccorso appare subito difficile. Il pozzo in cui è caduto Alfredino è un cunicolo largo poco più di 30 centimetri e profondo 80 metri. Cadendo, il piccolo si è incastrato in corrispondenza di una rientranza a circa 36 metri di profondità. Per prima cosa i vigili del fuoco calano nel buco una tavoletta di legno perché Alfredino vi si aggrappi e possa essere tirato su. Ma è un tragico errore. Così la madre. È venuto una persona dei pompieri e ha detto, dice, cerchiamo di mandare giù una tavoletta legata ai due bordi dove il bambino prende le manine, si aggrappa e viene su. La tavoletta a 25 metri si incastra, non veniva più nessuno e non andava più giù, perché dopo 25 metri il pozzo si restringeva di 5 centimetri e la tavoletta era rimasta incastrata lì. Il primo tentativo dei vigili dunque, anziché salvare Alfredino, complica la situazione. A questo punto i vigili del fuoco pensano di scavare un secondo pozzo parallelo al primo per poi tagliare in diagonale verso Alfredino, ma per farlo serve una trivella. Allora si decide di lanciare un appello attraverso le televisioni private. Quell'appello viene visto da Pierluigi Pini, inviato del TG2 della Rai. Sono arrivato su una televisione privata dove c'era della pubblicità e uno scorrimento. Si cercava una gru per salvare un bambino finito in un pozzo. La notizia, insomma, comincia a diffondersi. Sono le 4 di notte di giovedì 11 giugno. A Vermicino sono arrivati anche un gruppo di speleologi del soccorso alpino che si offrono come volontari per tentare di salvare Alfredino. Il caposquadra si chiama Tullio Bernabei, ha 22 anni. L'idea mia era arrivare alla tavoletta e levarla. E invece mi dovetti fermare perché era troppo stretto, circa 2 metri sopra la tavoletta, la vedevo bene, e vedevo anche la testa e il bambino 5 metri sotto, una cosa del genere. Ci ho parlato, lo sentivo, gli ho spiegato che dovevamo levare quella tavoletta, che saremmo andati. E sono stato sotto una ventina di minuti, però, che è il tempo massimo oltre il quale si perde un po' di lucidità, perché che succede? Che il sangue a testa in giù affluisce al cervello, ti scoppiano tutti i capillari, infatti uscì che ero tutto rosso qui, e ragioni sempre in modo sempre meno lucido, e quindi mi tirarono su e provò Maurizio che era magro come me, insomma, anche lui fece forse un metro di più, ma non raggiunse la tavoletta. Il problema dunque è come rimuovere quella maledetta tavoletta, e tra i soccorritori cominciano i primi dissidi. Ripartiamo da qui, subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia di Alfredo Rampi, Alfredino, il bambino protagonista nel giugno dell'81 di un terribile fatto di cronaca che ha tenuto incollata alla televisione milioni di italiani. Alfredo, 6 anni, è caduto in un pozzo. Sono iniziate le manovre dei soccorritori. I vigili del fuoco ritengono l'operazione tentata dagli speleologi inutile e pericolosa. Dopo il tentativo fallito di Maurizio Monteleone, il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Elveno Pastorelli, prende una decisione drastica. Così lo ricorda Tullio Bernabei, il primo vigile del fuoco a essersi calato nel pozzo. In quell'esatto momento venne il responsabile dei soccorsi Pastorelli e disse: basta con questo tentativo, scegliamo la via della trivella. Laura Bortolani, che era geologa, è geologa, conosceva un po' la stratigrafia di quella zona di periferia romana e sapeva che era pieno di lava, di peperino, di roccia dura, quindi gli disse: ma un pozzo parallelo così profondo ci vuole tanto, noi non siamo d'accordo, continuiamo da questa parte, o almeno facci fare tutte e due, voi fate quelle e noi continuiamo da tavoletta. Non solo ci dissero di no, ma ci dissero: adesso voi avete finito, andate. Il comando dei Vigili del Fuoco, insomma, ha deciso. La strada per salvare Alfredino è quella del pozzo parallelo. Secondo i tecnici sarà solo questione di ore. Alle 8:30 di giovedì mattina la trivella comincia a scavare il secondo pozzo. Intanto nella sede Rai di Via Teulada, dove sono le sedi dei telegiornali, arrivano le prime immagini girate nella notte con il sonoro realizzato con il microfono calato dentro il pozzo dove c'è Alfredino. Alfredino, di qualcosa che ti sentiamo! Giovedì 11 giugno, ore 13. È l'ora dei TG. La vicenda di Vermicino entra per la prima volta nelle case degli italiani. Emilio Fede. Durante la riunione di redazione del Mattino, quella che imposta le varie edizioni, con i capi redattori, ricordo che per l'edizione delle 13:30, sempre ovviamente del TG1, mi sono chiesto se non fosse stato possibile trovare qualche avvenimento di cronaca, cioè di vivacizzare quella giornata, tentare di vivacizzare la scaletta. Il capo redattore era Andrea Melodia e mi fa: direttore, guarda, l'unica cosa, hanno telefonato poco fa i pompieri, i vigili del fuoco, dicendo che sono andati a Vermicino per andare a salvare un bambino che è caduto in un pozzo. In un pozzo? Sì, in una buca, è sprofondato, dentro sono andati per salvarlo. Beh, che bella storia, è quasi un asso nella manica da riportare in positivo. Mandiamo la telecamera mobile. Ecco, Beretta ci ha chiesto la linea da Vermicino e la diamo immediatamente. E da quel momento il circo mediatico sta per aprirsi. Dapprima uno sforamento, come si dice in gergo, del TG1 delle 13:30, poi il succedersi delle edizioni straordinarie nel corso del pomeriggio. L'Italia intera sembra racchiusa nel dramma che si sta vivendo a Vermicino e che la televisione trasmette. Eppure, in quella primavera dell'81, il paese è lacerato da eventi drammatici e oscuri, e allora lo ricordiamo così. Maggio. In piazza San Pietro, il terrorista turco Ali Ajka spara a Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. Roma, 21 maggio. Il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani rende pubblici i nomi dei 964 iscritti alla loggia massonica P2 guidata da Licio Gelli. 5 giorni più tardi Forlani dovrà dimettersi. È crisi di governo. San Benedetto del Tronto, 10 giugno, lo stesso giorno in cui Alfredino cade nel pozzo, le Brigate Rosse rapiscono Roberto Peci, fratello di Patrizio, il primo pentito delle BR. Dunque, in quel giugno dell'81 l'Italia vive in uno stato di tensione e di emergenza. L'avete sentito, la P2, l'attentato al Papa, il terrorismo sempre più efferato, il primo governo a guida laica. Eppure da giovedì 11 giugno tutto questo passa in secondo piano. In primo piano c'è Vermicino e il dramma di quel bambino nel pozzo. Stamane l'apertura di questo giornale è dedicata ad un fatto di cronaca che da diverse ore sta tenendo tutti col fiato sospeso. Il bambino è intrappolato nel pozzo oramai da 19 ore. A Vermicino intanto i tecnici sono al lavoro con la trivella. A quanto si dice dovrebbe essere questione di ore. Ma le speranze si rivelano del tutto infondate. Sotto lo strato superficiale, infatti, il terreno è roccioso e lo scavo procede a rilento. Un vigile del fuoco in particolare riesce a stabilire un rapporto di fiducia con il bambino, intrattenendolo e incoraggiandolo. Si chiama Nando Broglio. Ho cominciato a dialogare con lui, insomma, promettendogli che quando veniva fuori lo portavo con me, nei vigili del fuoco, sulla macchina, la sirena. E sentivo che lui era propenso a dialogare, a sentire, no? Giovedì 11 giugno, ore 16. Alfredino è nel pozzo da 21 ore. A Vermicino entra in funzione una seconda trivella, più potente e solida di quella utilizzata sinora. I tecnici della ditta Geosonda, che ha messo a disposizione il macchinario, gelano però le speranze dei presenti. Lo strato di roccia è molto duro e per recuperare Alfredino, dicono, ci vorranno dalle 8 alle 12 ore. Mentre la trivella avanza a fatica, dunque, metro dopo metro, a Vermicino le ore passano inesorabili. Intanto, intorno a quel pozzo si è radunata una folla crescente, una folla immensa, letteralmente migliaia di persone, tra curiosi, volontari, autorità locali. La confusione ormai è totale, Piero Badaloni e TG3. Non c'era neanche lo spazio vitale per far passare l'ambulanza, che era bloccata e sovrastata da queste, erano state 10.000 persone che si nutrivano grazie agli ambulanti che portavano panini, bibite, insomma era diventato un reality show terrificante e che mi fece tornare a casa molto stomacato. I centralini della RAI e dei vigili del fuoco a questo punto sono intasati. I volontari chiamano a migliaia con offerte di soccorso, ma anche con improbabili consigli su come tirare fuori Alfredino. La RAI, da parte sua, stravolge i palinsesti. La diretta più lunga della storia della televisione italiana è iniziata. Buonasera. Molti fatti interni e internazionali caratterizzano la giornata di oggi, come avete sentito dai titoli, ma c'è un fatto drammatico che tiene... Da ieri sera, prigioniero in un pozzo. Quanto manca per raggiungere il piccolo Alfredo? In quell'ora nell'azienda successe di tutto. I telefoni erano bollenti, vibravano, la gente diceva non ce ne importa niente, che cosa ci importa? Ridateci Vermicino e fateci sapere cosa sta accadendo. Era Giancarlo Santalmassi del TG3. Sono le 21:30 di giovedì 11 giugno. Tutta l'Italia pensa solo a Vermicino. Ma il lavoro della trivella procede a rilento, troppo a rilento. Si decide allora di fare una pausa e provare di nuovo a calare una persona nel pozzo principale. Il volontario questa volta è Isidoro Mirabella, un siciliano di 52 anni, subito ribattezzato l'Uomo Ragno. L'esperimento non ha dato l'esito sperato. Poco dopo l'anziano signore è stato ritirato fuori perché non poteva continuare. Alfredo Rampi è in quel pozzo, in fondo a quel pozzo oramai da poco più di 24 ore, ma neppure un'altra notte di scavi, di tentativi improvvisati basta per tirarlo fuori di lì. Sono le 7:30 di venerdì 12 giugno, in diretta nell'edizione straordinaria del TG2 la mamma di Alfredo, Franca, dà sfogo a tutta la sua legittima esasperazione. È passata tutta la notte, siamo alle 7 di mattina e siamo sempre a 25 metri. Il bambino sta a 36 metri, quanto arriviamo tra una settimana, 10 giorni? Questa macchina non va avanti, non va avanti, non va avanti, un pezzettino, 10 centimetri, 15 centimetri, qui sta questione di metri, qui staremo pure un mese con questo andamento. Alle 9 del mattino di venerdì 12 giugno, d'improvviso una buona notizia. La trivella riporta in superficie non più una modesta quantità di pietrisco, ma un'abbondante massa di terra morbida. Questo significa che lo strato di roccia dura è stato penetrato e che ora si potrà procedere molto più velocemente. Le migliaia di persone assiepate attorno al pozzo accolgono l'annuncio con un lungo applauso. Meno di 2 ore più tardi l'ottimismo fa i conti con la realtà, e la realtà è che i lavori continueranno a rilento. I medici sono sempre più preoccupati per le condizioni di Alfredino, ormai nel pozzo da 40 ore. Bisogna accelerare i soccorsi. Si decide allora di scavare subito il tunnel di collegamento fra i due pozzi. Malgrado tutto, insomma, a questo punto sembra davvero che sia solo questione di ore. A Roma, all'ospedale San Giovanni, è già stato dato l'allerta per ricevere Alfredo e prestargli le prime cure. A Vermicino tutti ne sono ormai certi. A questo punto è fatta. Il bambino ormai è salvo. Ecco, guarda, questo è un momento piuttosto delicato. Se vedi c'è un silenzio assoluto. Il comandante dei vigili, ecco, questo applauso, senti? Alle 4 del pomeriggio di venerdì sembra fatta. I vigili del fuoco con grande cautela scavano un varco per collegare i due pozzi. Signora, mi scusi, ecco, abbiamo qui la mamma di Alfredo. Ecco, signora, sì, siamo veramente ormai alla fine. Speriamo, questa fine sembra sempre imminente, speriamo, sì. Signora, l'abbiamo vista prima quasi, diciamo, in un momento di disperazione. Aveva avuto, diciamo, delle notizie negative oppure era semplicemente, diciamo, un po' un rilassamento di tutta la tensione di queste ore? Mi hanno detto che praticamente erano arrivati giù, stavano facendo il buco, lui ancora respirava, è stato un momento di felicità, ho pianto per la felicità. Ma in questo dramma che si sta svolgendo minuto per minuto davanti alle telecamere c'è un nuovo colpo di scena. Ne parliamo dopo la pubblicità. Mix 24. La storia. Rieccoci su Mix 24 con la storia di Alfredo Rampi, 6 anni, caduto in un pozzo nei pressi di Vermicino. Sono le 16:30 di venerdì 12 giugno. Alfredino è nel pozzo da 46 ore. Venerdì 12 giugno, ore 19. Alfredino è nel pozzo da quasi 48 ore. I vigili del fuoco abbattono finalmente l'ultimo diaframma di terra che separa i due pozzi, quello in cui è precipitato il bambino e quello scavato per salvarlo. Lo racconta ancora Nando Broglio dei vigili del fuoco. Rotto il diaframma, un collega gli disse: io prendi la lanterna, guarda, sicuramente sta poco sopra noi, o poco sotto, perché questa era in base ai metri che lui era scivolato giù. Lì è stata la mia botta, perché Alfredino non c'era. L'unica deduzione è quella che ci ha scivolato di giù. Sono momenti drammatici. Dal buio del tunnel un'ondata di sconforto investe la folla in superficie. Alfredino non è dove si pensava, ma è scivolato molto più giù. Anche l'operazione di salvataggio basata sul tunnel parallelo si è rivelata un fallimento totale. E a quel punto Pastorelli ci chiamò e disse: noi non possiamo fare più nulla, adesso tocca a voi. Naturalmente io protestai, perché era veramente una situazione estrema a quel punto. E lui disse: fate quello che vi pare, però insomma troviamo una soluzione. La soluzione era quella di andare a vedere intanto dove stava il ragazzino. E quindi io fui calato con il cestello, feci il tunnel di collegamento e mi affacciai sul pozzo a 34, che lì era già strettissimo, cioè era così 25 centimetri, 28 veramente, c'entrava la mia testa, e mi portai giù una torcia elettrica, una luce e un cavo, un cordino bianco, attaccai la torcia al cordino e calai questa torcia. E quindi ho ben in mente l'immagine di questo tubo che viene illuminato dal cerchio di luce bianca che scende, e non lo vedevo e calavo, finché lo vidi lontanissimo e lo sentivo respirare, lo sentivo ansimare. A quel punto feci un nodo al cordino e, tirando su, misurai la distanza fra me e il bambino. Mentre tiravo su e contavo, ogni metro era una pugnalata, perché io sapevo cosa corrispondeva ogni metro, cioè quanto lo allontanava dalla vita, dalla salvezza e dalla possibilità di raggiungerlo. E venne fuori qualcosa come 38 metri, una quarantina, insomma, stavamo più profondo del previsto e comunicai questo dato fuori per radio. E a quel punto poteva iniziare soltanto una serie di tentativi disperati. Per i soccorritori, per la mamma di Alfredino, per tutti gli italiani che seguono quel dramma in diretta, è un colpo tremendo. Il bambino non è a 36 metri di profondità come si pensava, ma è scivolato giù, molto più giù, oltre 60 metri sottoterra. A questo punto per Alfredino c'è una sola speranza: trovare qualcuno che sia sufficientemente piccolo di corporatura per potersi infilare in quel pozzo maledetto. Si cercano volontari. A Vermicino affluiscono sempre più numerosi candidati più improbabili. Ancora Nando Broglio dei Vigili del Fuoco. Era un caos generale, Le urla, poi la gente. Non te faceva, sentivamo il fiato sul collo. Non c'erano forze dell'ordine che tenevano. E tutti volevano stare, tutti volevano intervenire, volevano scendere. Sono venuti nani, sono venuti gente macrolina così. Ma insomma non si poteva mandare giù gente così, impreparata soprattutto poi. Col rischio ci moriva anche lui, insomma. Il primo a provarci è uno speleologo di 28 anni, Claudio Aprile. Cercherò di entrare nel conicolo in avanti e poi quando arrivo nell'altro pozzo, di calarmi a testa in giù, arrivare fino a dove sta il piccolo Alfredo. Ma quel passaggio si rivela troppo angusto e Aprile è costretto a desistere. Aprile insomma non ce la fa, adesso tocca un altro volontario, un giovane sardo di 28 anni che si chiama Angelo Licheri. Avevo coraggio, ma era un coraggio, diciamo sì, al 70%, 75% forse, perché volevo andare e basta. Licheri appare subito come l'uomo giusto. Ha un corpo minuscolo, un carattere determinato e un coraggio straordinario. Prima che arrivasse il suo turno, Licheri ha assistito attonito all'insuccesso di Claudio Aprile. Quando ho visto questo che è venuto fuori, era bianco come una tela, ti giuro mi ha messo paura. Sono sceso lì dalla trivela, mi sono avvicinato, l'ho preso così, l'ho messo le mani nella guancia, le dico, dimmi un po', ma lì sotto com'è, tu che qualcosa hai visto? Lì nessuno mai riuscirà ad entrare, è un buco piccolo, è tutto buio. Quando questo mi ha detto, lì non si può far niente, nessuno riuscirà a far niente. È mezzanotte, da tentare è uno dei giovani speleologi del CAI, di nome Angelo. Lo vedete mentre sta per prepararsi a questo cimino. Piano piano la bianca. Vai. Tirare adagio la bianca, la corda bianca. Si vede il culo. Più. Le scarpe. Più. Le scarpe al bambino. Più. Mano la bianca. Ecco, sembra che ce la stia per fare. La bianca, dai. Allora, ho trovato questo bambino. Ho levato questa qui, volevo assicurarmi che fosse il bambino, perché talmente pieno di fango non riuscivo bene a vedere. Ecco, Angelo può parlare con Alfredo, tenta di consolare. Stai dicendo, Giulio? Non lo capisco. Mi sta parlando molto dolcemente. Sì. Perché io parlavo con lui. Lui non parlava, rantolava. Ho provato a mettere questa cinghia passandola così dalla testa, ripassandogliela sotto le ascelle, così è girata qui, in modo che con le mani potevo tirare su. Tira piano, loro questo tira piano, non so il piano, e la stratonata che proprio, oltre che sentivo già i piedi che non reggevo, la stratonata ha permesso alla fettuccia, diciamo, di scivolare. E di uscire, di andare via. Mi hanno mollato le gambe? Ma l'hai preso, come scivolava. L'ho preso l'occhietta, non so. Eh? È ricaduto giù? L'ho pulito l'occhietta da sangue. È ricaduto giù? Sì, sì. Dove sta adesso? Dove prima. Ok, comunque aspetta. Giulio. Sono giù intorno alle braccia. No, sì, lui parla ancora, non si lamenta, insomma, l'ha detto che non possiamo uscire con me, l'ha detto che se riuscivo a andare fuori, non possiamo uscire con me. sotto. Con l'ancoletta, sì? Uso solamente le braccia. Le braccia sono solo... Aspetta. Però... Si a un certo punto l'ho preso la testa dei gomiti, però era talmente fino e viscido che è scivolato via. Ho provato ancora a tirarlo su, ecco, e l'ho rotto il polsino. E allora lì mi sono trovato, quasi ho provato un senso di colpa, dico guarda un po', dopo quanto sta soffrendo, mancavo io che arrivassi lì a romperti anche il polsino. A questo punto ho detto basta, ho detto tira, tira, poi lì ero disperato. E lì mi è saltato proprio il sangue, mi ribolliva tutto. Ecco, questo è il momento in cui ritornano in superficie. Angelo sta male. Eccolo. 45 minuti. Ripeto, quando al massimo si può resistere 25 minuti. Anche Angelo Licheri si è dovuto arrendere. A questo punto, a Vermicino, regna l'improvvisazione. Ritorniamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24 con la storia di Alfredo Rampi, 6 anni, caduto in un pozzo nei pressi di Vermicino. Tra la folla si fa largo un giovane minuto, ha 25 anni, è uno speleologo, si chiama Donato Caruso. Come Licheri, anche Caruso ha le caratteristiche ideali per riuscire nell'impresa. Di corporatura molto esile, appare calmo e risoluto ed esperto di speleologia. Su di lui si concentrano le speranze di milioni di italiani, primo fra tutti il presidente Pertini. Ecco, il presidente con ampi gesti sta tentando... Bene, Donato, perfetto, ottimo, con calma... Vai tranquillo, c'è un bambino da salvare. Ecco, interrompo un attimo solo per far notare l'estrema facilità con cui Donato sta scendendo, ha superato il cunicolo. Donato! Lo vedi? La rossa, vai. Donato! Mi risponde? Allora prendo! Acchiappalo! Lo senti respirare? Non ci importa, adesso tiriamolo su. Dicchi che lo legasse bene. Legalo bene! Sei legato? Riuscì a afferrarlo mettendolo la prima volta delle fette che usano per i matti, che più le tiri più si stringono, però non aderivano, che il bambino già aveva il polso esile. Allora gli mise a gomito, un po' a lip lì hanno aderito un po', poi con uno strattone sono uscito pure là e risalì sopra. Ecco, forse avete sentito, Donato è risalito senza bambino, senza Alfredo. Ha provato a legarlo, adesso non sappiamo cosa è successo. Qui la speranza era molta, ma il bambino è rimasto nuovamente giù in fondo al pozzo. Anche Caruso sembra aver fallito. Dopo 15 minuti lo speleologo risale al pozzo di collegamento. In superficie sono tutti ormai scoraggiati. Poi però dal buio di quel pozzo arriva una notizia. Ecco, questa è una notizia, non so se l'avete sentita. Donato non vuole risalire, ha detto che si vuole solo riposare e poi ritenterà. Chi è che prova? Prova! Prova se la manetta regge. Donato, va bene? Si muove? Donato! Donato! Il bambino si è mosso? Non c'è appeso? No, non c'è niente. Sabato 13 giugno, ore 7 del mattino. Caruso torna in superficie. Anche lui ha fallito. Ai vigili del fuoco comunica che Alfredino Rampi giace in quel pozzo ormai privo di vita. Ad annunciare la morte del bambino all'Italia intera è il professor Fava. Debbo concludere, a seguito di queste rilevazioni, seppur indirette, che una presunzione di morte purtroppo la dobbiamo accettare, tristemente accettare. Daniele Biondo, presidente del centro Alfredo Rampi. Sono passati 34 anni da quella tragedia. Ma oggi si sa la tecnica con cui Alfredino si sarebbe potuto salvare? Sì, la si sa perfettamente. Ad elaborarla è uno degli speleologi che si trovò esattamente 34 anni fa intorno al pozzo di Vermicino. E quindi qual è, se può dirla in breve? Si potevano calare nel pozzo, bloccare prima ancora di intervenire il bambino attraverso degli ancoraggi. Purtroppo i vigili del fuoco non accettarono l'aiuto degli speleologi perché troppo giovani, perché volevano essere loro a salvare il bambino, vista l'esposizione, la risonanza mediatica, del fenomeno, impedirono agli speleologi di intervenire. Quindi scavando dall'interno di quel pozzo, entrando uno speleologo che avrebbe dovuto imbracare il bambino, ma soprattutto liberare le pareti, perché il bambino era incastrato nelle pareti del pozzo, pareti di roccia artesiana, quindi andava liberato prima scavando, e questo lo può fare solo uno che normalmente lavora, conosce quel territorio, lavora in grotta, nelle rocce, e conosce quel tipo di difficoltà. Daniele Biondo, ma come è nato il centro Rampi? Proprio perché la signora Rampi in quei giorni, in quei tre giorni terribili in cui vedeva la disorganizzazione, la confusione, l'improvvisazione dei soccorsi, si rese conto che il nostro paese, che era tutto lì, perché c'era da migliaia di persone. Lo abbiamo raccontato, è arrivato Pertini, tutte le televisioni. Un paese intero impotente a fronteggiare un'emergenza in fondo limitata, perché diciamo, rispetto alle grandi emergenze del nostro paese, quella di un bambino nel pozzo era un'emergenza limitata, e fummo completamente impotenti. Allora la signora, che lo visse sulla propria pelle, perdendo un figlio, il giorno dopo della morte di suo figlio fece un appello a tutti i cittadini sensibili affinché appunto non si verificasse più una tragedia del genere, e quindi propose immediatamente il centro Alfredo Rampi come un'associazione che si occupasse dell'organizzazione del nostro paese, del sistema dei soccorsi, del sistema di protezione civile che ancora all'epoca mancava. Quindi la vostra è un'attività volontaria di prevenzione per la sicurezza dei bambini soprattutto, ma dove operate? Esatto, noi operiamo a Roma con tra l'altro diverse sedi e in altre parti d'Italia, da Torino e Isernia, con gruppi di volontari di protezione civile, ma anche con altri gruppi che si occupano di prevenzione, psicologi dell'emergenza, clown della protezione civile per la seconda fase, dopo la catastrofe, nella fase del recupero, per aiutare appunto i bambini, i ragazzi a risollevarsi. Quindi la vostra è una sorta di protezione civile? La nostra è la protezione civile. Perché è la protezione civile? Perché la protezione civile è un sistema che mette insieme delle componenti istituzionali, per esempio i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana e il 118, l'Esercito, e delle componenti invece del volontariato, che a pieno titolo fanno parte del sistema, tant'è vero, e questo sempre è solo grazie al centro Alfredo Rampi, al fatto che abbiamo avuto una legge. Solo dopo 10 anni dall'evento di Vermicino abbiamo dovuto combattere 10 anni per avere la legge che ha istituito il Sistema Nazionale di Protezione Civile. Dicevo, grazie a questo i volontari oggi sono delle forze organizzate, preparate, formate all'intervento. Ma la protezione, e si trovano in tutto il paese. La protezione civile quando è nata? Appunto, il giorno dopo l'evento, quando si capì che non c'era più niente da fare, che il bambino ormai non era recuperabile ed era morto, il presidente Sandro Pertini, all'appello di Franca Rampi, rispose: signora, io mi impegno a fare per lei un ministero, e creò subitamente, perché Pertini era Pertini, un grande presidente, creò il ministero all'epoca della protezione civile con l'onorevole Zambelli. Quindi da lì è nata, e oggi a che punto è la protezione civile? Guardi, oggi abbiamo una grande protezione civile, possiamo essere orgogliosi nel nostro paese di avere un sistema di soccorso veramente efficace, e lo dice un'associazione, diciamo, che ne fa parte, quindi potrebbe sembrare essere un'affermazione di parte, ma no, invece è riconosciuto da tutti i paesi del mondo. Nelle grandi emergenze internazionali la nostra protezione civile viene chiamata, di questo siamo orgogliosi. Quindi noi sappiamo fare molto bene dopo la catastrofe, siamo ancora purtroppo all'anno zero sulla prevenzione, per quanto riguarda la prevenzione degli eventi calamitosi o dei grandi incidenti che possono attentare alla nostra incolumità. Su quello ancora c'è tantissimo da fare. E purtroppo lo vediamo spesso. Perché noi spendiamo tanto dopo e spendiamo niente prima. La cosa più difficile che incontrate in questo vostro lavoro? Ecco, esattamente questo, ringrazio la domanda, perché è duro riuscire a proporre e far comprendere a tutti, ai cittadini, ai politici, l'importanza della preparazione. Le faccio solo un esempio per dirle come siamo prigionieri della cultura dell'emergenza. Brevissimo, noi brevissimo, perché ho pochissimo tempo. Sì, noi abbiamo creato a Roma, al Divino Amore, un centro per l'esercitazione e la preparazione dei cittadini all'emergenza. Ci hanno sfrattato dall'oggi al domani la parrocchia del Divino Amore per lasciare spazio a una comunità di preti pedofili, per curare i preti pedofili. Ecco, l'emergenza che sopraffa sempre la prevenzione. Per dirle le difficoltà con cui combattiamo ogni giorno, queste. Ma come vi finanziate voi? Noi non abbiamo mai ricevuto alcun finanziamento dallo Stato di alcun tipo, ci finanziamo appunto con le attività del volontariato, quindi ci autofinanziamo sostanzialmente. Daniele Biondo, la mamma di Alfredo Rampi, in un'unica e bellissima intervista che si trova sul vostro sito del centro Alfredo Rampi, ha dichiarato che appunto questa attività del centro le ha salvato la vita. Perché? Ecco, perché lei, come dire, piuttosto che chiudersi nel suo dolore, ha saputo trasfigurarlo nell'impegno dentro l'associazione, quindi ha trovato nel centro Fiorampi quel figlio che aveva perso, e grazie a questo il figlio l'ha continuato a crescere, facendo crescere la protezione civile, l'associazione che promuoveva la protezione civile, cioè il centro Fiorampi, e insomma questo gli ha permesso di risollevarsi, di trovare uno scopo nella vita che, come ben può capire ogni genitore che perde un figlio, rischia di essere perso. Grazie. A lei.